Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Secondo me, soprattutto in estate in cui c'è una maggiore libertà e una minore tenuta e sorveglianza nei confronti dei figli, è importante riascoltarsi questa puntata di Melog dedicata all'abuso di alcol nei giovani. Noi passiamo da una generazione in cui il vero grande cocente terrore è al più alto gradino delle trasgressioni possibili di un figlio poneva la droga pesante. Oggi non è detto che il problema droga sia un problema esaurito, si è diversamente articolato attraverso altre forme di droga, altre idee, altre concezioni dello sballo, ma rimane l'alcol una delle maggiori fonti di intossicamento dei giovani. Chi parla non è assolutamente un tipo da disprezzare i piaceri di una buona bottiglia, di un buon bicchiere, di un fantastico distillato. Ma in effetti sarà interessante per voi scoprire come il mondo, il variegato universo giovanile, abbia tra le sue passioni più nascoste e ahimè anche più pericolose, quelli che erano gli antichi passatempi da alcolista di paese: il grappino, l'anicetta, il cognacchino, il bicchierino. Beh, ascoltate, se non avete già ascoltato questa puntata, ne scoprirete delle belle. Inizierò con una notizia che poco c'entra con l'argomento della giornata, ma di quelle notizie che fanno riflettere. Da un certo punto di vista allargano il cuore, ma fanno riflettere sulla loro veridicità. Anche se oggi riportata da un lancio in prima pagina, un intero paginone di un illustre quotidiano come il Corriere della Sera, è una notizia che in sé mi dà larghi margini di dubbio. Mi dà l'idea di una di quelle fantastiche leggende metropolitane di cui era espertissimo fornitore l'avvocato Canzona, di cui oggi sente poco, che davano humus e alimento a grandi commenti. Perché me lo fa pensare? Perché prima una notizia che esce domenica su lunedì, la tipica notizia viene data ai giornali in un momento in cui non si aspetta altro che avere notizie per riempire le pagine. Seconda cosa, non ci sono circostanze di veridicità su questa notizia. Terza cosa, è un esempio di tema di base in cui possono intervenire persone che notoriamente hanno grande visibilità nel mondo della comunicazione. La notizia è la fantastica storia leggendaria dell'ottantenne ricchissimo veneziano che va a passare una notte che secondo lui dovrebbe essere la botta di vita, probabilmente finale, in un grande albergo milanese di grande lusso. Va nella camera dove è stato Charlie Chaplin, Vita Peron, Woody Allen, Tic Tac, Madonna, un letto a sei piazze, si mette su questo letto con tre fantastiche ragazze nude e fa il botto e muore. Ottantenne morto in un hotel di lusso, giallo in camera. Poi dicono adesso naturalmente le ragazze non erano tre ma erano soltanto una, due erano salite, non si sa nulla, ma è morto semplicemente perché era giusto che morisse, perché uno che fa questa scelta è una sorta di fantastico trapasso, è una scelta accurata di dietà psicopompe che ti accompagnino nella mano nell'aldilà. Ma mi fa ridere perché poi alla fine il succo dell'articolo è Alessandra Graziottin che parla, Willy Pasini che parla, tutti i soliti esperti da grande talk show di serata e che dicono la loro quanto faccia male esagerare una certa età e quanto bisogna stare attenti alle sostanze che si assumono, anche se è l'antica eterna sostanza scaturigine della nostra esistenza e fonte di ogni nostra ricerca. Voi direte cosa c'entra? Niente, non c'entra una mazza, ma fatto ridere che attorno a una leggenda si faccia un paginone intero. Invece mi fa pensare, riflettere il fatto che finché un ottantenne decide di morire in bellezza e sceglie tutti gli ingredienti del proprio traumatico passaggio nell'aldilà, che lo faccia un ragazzino mi sembra un pochino più difficile e un pochino più problematico. L'altro episodio, vero, reale, concreto, non leggendario, ma che lo riporto dalla mia personale diretta olfattiva e sensoriale esperienza, è accaduto in prossimità della fermata alla metro A di Roma, Cipro. Ero seduto nel sedile della metropolitana in attesa di scendere alla fermata. Di fronte a me c'erano tre ragazzine, età media avranno avuto, dai dai 13 ai 15 anni, di cui una era particolarmente stravaccata addosso a una sua amica, sembrava addormentata, sembrava un pochino andata, immaginavo o è stanca o probabilmente, non lo so, c'era avuto i problemi suoi. A un certo punto, con, devo dire, un certo stile, la ragazzina ha alzato il capino abbandonato sulla spalla della sua amichetta, ha allargato le gambe, ha appoggiato il capino a, diciamo, i palmi delle mani e ha cominciato a vomitare. La vomitata sarà durata circa un minuto e mezzo, ma da quella innocente fanciulla saranno usciti 2 litri di vino rosso. Sì, perché era inequivocabile, era una grande macchia di vino rosso e devo dire, per l'esperienza che ho, somigliava molto a quei vini in cartone, capito? Quelli che normalmente si vedono avvinghiati ai clochard, gli uomini senza dimora, le persone ai bordi dei marciapiedi. La ragazzina ha buttato queste 2 litrate di vino, hanno riso fra di loro, si sono prese in giro, sono scese alla fermata lasciando con il loro mesto carico tutti gli abitanti di quel vagone. L'ho seguita un po' con lo sguardo, che sono sceso anche con la fermata, tranquilla, allegre, felice, andavano, ha tirato fuori una bottiglietta d'acqua minerale, si è sciacquata la bocca e se n'è andata verso il suo incerto destino. Mi fa pensare perché questa ragazzina, età media, 14-15 anni, alle 11 di mattina, quella era la loro, si era ingurgitata 2 litri di vinaccio rosso. Cosa me lo fa pensare? Me lo fa pensare che in effetti in realtà esiste una sorta di nuova sfida, che nulla a che fare con la sfida alla vita, al morire in bellezza, alla distruzione dell'ottantenne che muore tra pelo e cocaina, decidendo che quella è la maniera migliore per trapassare, evitando l'Alzheimer, evitando dolorosi fardelli. Ma perché la ragazzina di 14 anni beve 2 litri di vinaccio? Guardate, erano un litro e mezzo sicuramente, ci ho fatto caso da come si allargava macchia di vino, questa rossa sintomatica stigma della disperazione di questa ragazzina. Vedo che l'Istat ha fatto un recentissimo studio sull'uso dell'alcol fuori pasto e ha visto che c'è un incremento altissimo nella quota 14-17enni che consuma fuori pasto dal 15,5% in più di alcol al 18,8% di alcol rispetto anche semplicemente l'anno prima. Ragazzi di età banalmente tenera, che hanno il diritto di fare tutte le loro esperienze, scelgono come esperienza bruciante quella di bere il vino, come se fossero vecchi avvinazzati, come se fossero di fronte all'osteria. Bevono vino, superalcolici, birra, poi un'infinità di miscele che fanno, orrendi cocktail di rum e pera o di... provano assenzio nelle sue forme più devastanti, cose tutte che noi anziani spesso parliamo, di cui spesso ci beviamo, ma che lo faccia un quattordicenne ci fa un po' sorridere, ci fa tenerezza. Ma dobbiamo capire cosa ci sia dietro quest'uso, perché non è proprio un gioco, non è proprio uno scherzo. E poi arriva su mi dà il sonno, arriva su, così. Questa ragazza, sono ubriaca alle 6 di pomeriggio, cioè ti pare? Drunked si dice in olandese. Noi abbiamo fatto appena la pipì da Sarsbastusk e io non ho bevuto, cioè io non è che non ho bevuto, non abbiamo preso il cappuccino. Madonna. Vanno a foto? Madonna, siamo quanti cicchetti? 3? Questa è una piccola rassegna di momenti di epica quotidiana di minorenni che su YouTube trovano giustamente maniera di certificare i loro momenti di uscita dal mondo. Con i loro telefonini riprendono loro sballati, ubriachi, al di fuori dei locali, in giro per strada. Abbiamo fatto grande fatica nel trovare qualcosa di comprensibile, la maggior parte sono cose che non si sente, rumori, gente che ride, gente completamente strafatta. Mi viene da ragionare questa mattina su quanto voi ne sappiate rispetto all'abuso dei superalcolici da parte dei vostri figli minorenni. Mi interessa, mi sorprende, e sorprende, non mi sorprende nulla, mi viene di parlare di questo argomento. Ho sentito molte mamme raccontarmi devastanti tour alla ricerca del figlio ubriaco per i luoghi di incontro, parlo di Roma, che possono essere i dintorni di Ponte Milvio, Campo dei Fiori, alla ricerca di ragazzini ubriachi. Una mamma, non me lo vuole raccontare oggi in trasmissione per motivi comprensibili, mi ha raccontato con particolareggiata cronaca una bambina minorenne, figlia, amica del figlio, da lei accompagnata in coma etilico al pronto soccorso, e l'ha salvato la vita. ma diciamo all'ordine del giorno per prendere il figlio ubriaco, portare a casa un ragazzino di 13 anni, 14 anni, 15 anni, ubriaco, ubriaco, come se fosse il nonno che si va a riprendere all'osteria. 800240024, questo è il numero, cominciate a raccontare, a dire, a descrivere, a domandare. Buongiorno Erika Valsecchi. Buongiorno. Erika Valsecchi è una pedagogista e autrice del libro Adolescenti in bottiglia, ragazze e alcol, che fare, edizioni Ancora. Io ho semplicemente fatto un quadro molto ampio di riferimento, ho citato la ricerca dell'Istat. Lei può dirci qualcosa in più? È realmente, non voglio parlare di pericolo, sennò sembro un bieco moralista, ma è un fenomeno da osservare, quello del consumo di superalcolici nei minorenni? Assolutamente sì, guardi, io ho iniziato a lavorare con l'adolescenza appunto difficile, diciamo, no? Un po' in stato di disagio diversi anni fa, e le dico che questo libro è nato un po' dalla curiosità che i ragazzi portavano dicendomi: ma guarda, io prima di dire appunto uso sostanze di tutti i tipi, io uso l'alcol, e questo avveniva puntualmente tutti i lunedì mattina. Per cui da qui è nato anche un po' il mio interesse di dire: ma come mai, piccolino, insomma 11, 12 anni, 13 al massimo, tu arrivi il lunedì mattina con un fortissimo mal di testa, stai male, la nausea, perché? Perché il sabato hai abusato in modo eccessivo di alcol. Guardi, le statistiche che anche riporto nel libro sono sicuramente dati reali e derivano dall'Istat, dall'Eurobarometro, da tutti comunque, diciamo, i più grandi enti. Le dico però dall'esperienza che sono minori alla realtà, non per parlare di pericolo, però è così, perché comunque l'alcol è culturalmente accettato, io questo veramente lo sottolineo, per cui moltissimi ragazzi, fino a quando non arrivano a stare veramente male, non denunciano il fatto che abusano in modo abbastanza frequente di alcol. Ecco, Erika Valsecchi, sì. Quello che mi piaceva capire, quello naturalmente che riguarda la sua ricerca e il suo campo di esperienza, non possiamo dare delle letture assolute. Mi sembra di capire che l'alcol viene consumato non tanto per il piacere di un consumo conviviale. Io penso alla mezza età come la nostra, io sono un amatore profondo e manifesto del Margarita, ma raramente in questo posso cercare un'uscita alcolica. Mi piace quando vengono amici o amiche, o anche quando me ne sto a casa in famiglia, ogni tanto il rituale di farsi il bicchierino, di berselo, di chiacchierare così. Qua invece sembra qualcosa che loro cercano, la botta che rompa il livello di attenzione alla realtà, e la cercano nella maniera probabilmente più a buon mercato e più semplice. Assolutamente, proprio questa che fa la differenza. Anch'io ho un marito sommelier, eppure scrivo e aiuto i ragazzi ad uscire dall'alcol. Non è l'apprezzamento del vino o di quell'alcolico che noi adulti, diciamo con buona consapevolezza, assumiamo per il piacere anche del gusto. Diventa soltanto la ricerca, è una droga, né più né meno, la ricerca di questa sostanza, quindi dell'alcol, con maggiore gradazione per sballarsi prima. Ecco, lei ha fatto anche, visto che in famiglia ve ne intendete, ha fatto anche un'analisi del tipo di sostanze, dei nomi delle sostanze. Io so che in realtà sono consumi molto particolari rispetto alle generazioni passate, sono piccoli cocktail, si parte dalle bevande che apparentemente sono bevande con bassissimo tasso alcolico, poi si va ai bicchierini, si va agli infusi particolari e strani. Cosa bevono particolarmente? Ma guardi, oggi vanno moltissimo di moda, soprattutto per le ragazze, che io nella mia generazione, cioè quando io avevo 14 anni, era proibito bere, non si poteva fare perché si faceva una brutta figura. Oggi anzi le ragazzine, soprattutto giovanissime, 11-12 anni, usano moltissimo gli alcol pops, quindi questi frutti uniti ad un alcol con bassa gradazione. Adesso non voglio fare pubblicità, però ce ne sono moltissimi sul mercato e con queste appunto pubblicità estremamente accattivanti, che quindi permettono di berne 3, 4, 5 di fila prima di arrivare a essere realmente ubriachi, e questo consente soprattutto alle femmine, alle ragazzine, di rimanere un po' più vigili all'interno del gruppo. Diciamo che la scena tipica che ho visto, avendo figli piccoli, capita di vederli, accompagnarli, sentire, poi l'occhio abituato a guardare, osservare, è quella del io vedo questi luoghi di aggregazione dei ragazzi. Roma, dicevo, è Ponte Milvio e Campo dei Fiori, dove vanno le sere canoniche, stanno tutti assieme, tutti con il bicchiere a mano, tutti intorno. Si nota una certa apartheid iniziale, ragazze da una parte, ragazzi dall'altra, tutto con i loro bicchieri. E poi inizia nei vari gruppi, naturalmente, le punte più avanzate, che è il ragazzino o la ragazzina, che comincia a subire per primo gli effetti della sostanza e comincia con comportamenti di divertimento per gli altri, a fare piccoli spettacoli, poi si siedono per terra, si siedono sui marciapiedi, e tutti intorno gli assistenti, e poi inizia a contaminarsi questo senso generalizzato, ma non finalizzato poi a nessuna attività ludica, a nessun divertimento, rimane tutto lì, bevono e si sballano, e dice: oh, quanto siamo fatti, quanto siamo ubriachi. Sentiamo Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho fatto antitaccheggio per qualche anno e presso i centri commerciali, e le posso assicurare che ci sono una marea di ragazzini in fascia delle prime classi delle scuole superiori che vengono, prendono bottiglie di vodka soprattutto ai supermercati, dice, quelle aromatiche, ed escono tranquillamente alla cassa. La cassiera, tra l'altro, abituata, non guarda neanche chi è, fa passare sulla cassa e pagano, va fuori. Anche perché uno si domanda, dice, essendo proibito, è proibito la legge dare alcol ai minorenni, come fanno a bere? C'è sempre il ragazzo maggiorenne, o se no vanno al supermercato. Non a caso è facile la mattina vederli ubriachi, quindi si va al supermercato, si fa la spesa e si porta via di tutto. Tenga presente che questo qui succede alle 8:30 di mattina, quindi è presumibile che per le 9:30 molti di loro siano già. Tra l'altro, a scuola di mio figlio, anni fa, è stato portato un paio con in coma quasi etilico all'ospedale, quindi sono situazioni veramente gravi, ma è da un sacco di tempo che succede queste cose, non è, voglio dire, e basta solo entrare in questi centri e vedere il movimento al mattino, ci si rende conto. Però l'unica cosa sarebbe il deterrente, non esiste, bloccarli all'uscita e farli portare indietro e non farle passare dalla cassa, a parte il fatto che qualcuna ne fa passare nelle borse, nei zaini, e così bisogna stare molto attenti. Però beh, se ne fregano è impossibile, è giusto, l'ha detto l'antitaccheggio, se lo può occupare. La cosa preoccupa un po' che se vanno alla cassa dei ragazzini con la bottiglia di vodka, la cassiera dovrebbe fare a meno di dargliela, ma io so che c'è sempre un ragazzo di classe superiore che va e li compra per tutti. Massimiliano, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo raccontare un'esperienza recentissima della settimana scorsa. Ho accompagnato mio figlio, insomma, in birreria a una festa di compleanno. Mio figlio ha 12 anni, quindi con coetanei di 12 anni, e c'era un bambino dove sono stato chiamato praticamente dal titolare della birreria, che c'è un bambino che si è sentito poco bene. Allorché mi sono precipitato, i genitori non erano presenti, nel senso che erano fuori per un weekend, e l'ho accompagnato in ospedale. Quindi vede che la storia che ho raccontato della mia amica, che già hanno scritto SMS, non raccontare bugie, non dire nel genere, è un fenomeno abbastanza frequente. Un genitore che accompagna un figlio di non si sa chi, un amico degli amici, all'ospedale perché è in coma etilico. So che è molto frequente. Sì, in effetti quando poi l'ho accompagnato all'ospedale, vabbè, hanno fatto una lavanda gastrica e tutto il resto, e poi il mattino seguente sono arrivati i genitori, e in effetti questo bambino praticamente ha bevuto due spritz, 12 anni, una birra e due bicchieri di coca. Mi sembra che sì, nella coca ci mettono anche il rum normalmente, il coca liscia è difficile se vogliono fare... Quindi c'è sempre qualcosa. Non so, comunque so che comunque ha bevuto anche due bicchieri come tutti gli altri. È stato l'unico, insomma, di tutti loro che ha fatto questa cosa qua. È un bambino di buona famiglia, il papà è un avvocato, quindi e la cosa mi ha stupito, nel senso che comunque un bambino di 12 anni che... Vabbè, guardi, che normalmente sono tutti ragazzi di buona famiglia, perché la famiglia fino a un certo punto poi può dare strumenti di contenzione, poi esiste una logica di gruppo, se vai e non bevi come gli altri ti dicono che sei uno sfigato, e avere una propria gratificazione sociale è molto più importante che seguire molte volte i dettami dei genitori. Giulio, buongiorno. Buongiorno, io ho un locale in una zona di Pescara che si chiama Pescara Vecchia, ed è una zona pedonale dove siamo in diversi ad avere locali dove somministriamo alcolici e in particolar modo anche cicchetti. È la movida pescarese, diciamo. Esatto, è una zona pedonale dove di fatto sono solo uffici, quindi non c'è disturbo per i residenti. Allora, le posso chiedere una domanda innanzitutto professionale? Mi fa un elenco di preferenze di ragazzini, poi dopo entriamo nel merito come, dove, quando riescono a prenderli. Cosa bevono? Dunque, inizialmente l'approccio è con alcolici a bassa gradazione, almeno questo parlo per gli shot, per i cicchetti fatti soprattutto con liquori al crema di whisky, basi molto dolci. Delle dopodiché, schifezze comunque, diciamo la verità. Assolutamente. Dopodiché invece quelli che... Era roba da vecchietti una volta, queste cose le signore ottantenni quando uscivano gli amiche per la canasta bevevano quei liquorini, le cremine di whisky, comunque vabbè andiamo avanti. Dopodiché si passa invece a vodka, dopodiché si passa invece a gin, dopodiché si passa invece ad altri tipi di distillati. Ma in che confezione vengono serviti? Piccoli bicchierini? Piccoli bicchierini da 1,50 euro a 2 euro. Il problema è che poi si arriva anche all'assenzio, il problema è che si arriva poi al latte di suocera. Cos'è il latte di suocera? Il latte di suocera sono praticamente distillati a 70-75 gradi. Vabbè, roba da montanari, sotto la neve. Centerbe vari, sì. Purtroppo... Cioè, centerbe solo quando uno va a sciare in alta montagna, se lo beve. Bombardini, eccetera, eccetera. Bombardino purtroppo, cos'è? Bombardino che? Bombardino è un liquore a base di uova, praticamente. Ah, l'antico Vov. Una Bravo, cosa del genere. Esatto, sì, che però adesso hanno cambiato il nome, l'hanno ristilizzato. Ma lo usavano i nonni quando dovevano fare delle uscite dalle loro regole coniugali con la speranza che fosse un corroborante? Un bambino usa il Vov. Poi... Allora, la legge in Italia è questa, non si può servire alcolici ai minori di anni 16. Purtroppo, secondo me, è troppo bassa come età. Quindi un 17enne, mio figlio che ha 17 anni, può comprare quello che vuole. Il problema è che può comprare quello che vuole. Non c'è una distinzione tra alcolici e liquori, cioè tra distillati e liquori. Secondo me un 16enne non può bere oltre i 40 gradi, ma anche un 18enne. Guardi, ci può dare altri 10 minuti di consulenza? Le posso chiedere questa gentilezza? Mi serviva proprio una persona addetta ai lavori dietro al banco, perché poi nessun sociologo, nessun esperto, nessun indice dell'Istat realmente mi saprebbe dire quello che può dirmi lei. Melog, la realtà condivisa. Alcuni lo chiamano semplicemente bere per ubriacarsi. L'Istituto Nazionale Americano contro gli abusi alcolici e l'alcolismo definisce il binge drinking come il consumo di 5 o più bicchieri di fila per gli uomini e di 4 o più bicchieri di fila per le donne. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rivela le tristi conseguenze del binge drinking tra gli studenti. Ogni anno muoiono 1.400 studenti tra i 18 e i 24 anni in seguito a infortuni e incidenti stradali legati all'alcol. 500.000 restano feriti, più di 600.000 subiscono aggressioni da coetanei ubriachi e più di 70.000 aggressioni di natura sessuale o sono violentati dal proprio partner. I dati epidemiologici attualmente disponibili segnalano l'Europa come il continente che registra il più elevato consumo di alcol dell'intero pianeta, circa la metà delle bevande alcoliche mondiali. Da un confronto tra i diversi studi si è potuto notare che in Europa una delle nazioni ai primi posti per un elevato consumo di alcol tra i giovani è la Danimarca. I giovani studenti danesi arrivano a consumare bevande alcoliche più di 20 volte al mese, seguiti dagli studenti dei Paesi Bassi, dagli inglesi e poi dagli italiani. La scheda è tratta dal libro Adolescenti in bottiglia, ragazzi, alcol che fare, Ancora Edizioni, di Erika Valsecchi, una pedagogista che abbiamo in collegamento. Stiamo parlando oggi di abuso di alcol nelle fasce di ragazzi molto giovani, di abuso finalizzato a una veloce e anche economica maniera per uscire dalla realtà, per abbandonare il controllo su sé, è una quasi un rito sociale. Abbiamo sentito dal nostro ascoltatore, che abbiamo ancora in linea, molto attento perché questo è il suo mestiere, lavora in un bar, in un locale del centro cittadino di Pescara, che il tipo di bevande rivelano una grande passione per il vintage alcolico. Ho sentito rinominare bevande che pensavo scomparse, che mi ricordano fanciulleschi passaggi con signori anziani, serate in trattorie fumose, notti in baite di montagna. Pensare questo invece è un figlio della generazione dei nativi digitali trovi come elemento di uscita dal mondo, mi fa molto riflettere. Erika Valsecchi ha aggiunto qualcosa alla sua esperienza, quello che ha detto il nostro ascoltatore. Questa ricerca e questa sorta di calo di fantasia nelle vie di uscita al mondo, io mi immaginavo che ci fossero delle nuove strabilianti formule, invece in realtà si bevono il vecchio Vov, il Centerbe, la crema caffè, cose che bevano i loro bisnonni. È vero, guardi, le aggiungo anche un altro dettaglio che piace molto ai ragazzini molto molto piccoli, che si usa almeno qui dalle mie parti, in Lombardia molto, sono le macedonie con il vino, quindi le fragole soprattutto con vino e zucchero, quindi la gradazione sia alta. Ma cosa fa ubriacarsi con la Macedonia? Cioè ci vuole un barile farsene? Sì, diciamo che è vero, è proprio questo il problema, come diceva questo ascoltatore, appunto questo barista. Un po' anche il tiramisù sarà considerato arma da sballo. Esatto, è proprio il problema dell'età, no? Perché ha sottolineato il fatto che in Italia la legge vieta il consumo fino ai 16 anni e se lei ne ha un figlio di 17 può andare al bar e comprarsi di tutto. In realtà è pericolosissimo perché noi non potremmo, cioè il nostro fisico non riesce a reggere. Comunque c'è un obbligo di legge di chiedere i documenti se ci fosse il sospetto? In teoria sì, la pratica poi, come avete detto anche in trasmissione, è andare al supermercato con un ragazzo 17enne e tutto passa, o mal che vada la commessa o la cassiera chiudono gli occhi, perché è anche una legge di mercato, alla fine comprano molti alcolici e quindi si vende, no? E la domanda è proprio questa, cioè è possibile educare a bere bene, no? Posso che utilizzarlo come una droga, perché se lei ascolta i ragazzini parlano come se si facessero di altre sostanze. Per esempio, vado giù pesante se bevo il whisky e la vodka, mi faccio leggero, no? Bevo qualcosina così, le fragole col vino piuttosto che qualche altro. Quindi applicano tutta una liturgia, tutto un mondo, esatto, di immaginario legato allo sballo, quello tosto, che è qualcosa di anni precedenti, a questa sorta di poi di liquorini da vecchie zie. Ecco, questa alla fine è la sintesi, mi sembra aver capito. Sicuramente c'è una grossa solitudine, perché come avete detto prima, noi ci ricordiamo magari delle serate con gli amici veramente divertenti in montagna, dove vabbè alla fine si era un po' tutti ubriachi, ma c'era veramente un sì, po', diciamocelo Erika, diciamo era finalizzato a creare una sorta di climax in cui con gli amici poi in montagna si beveva, ma alla fine non è che ci si fermava. Questi invece mi sembra che li vedo a decine se non centinaia ammassati in delle piazze, si sballano per vomitare sui marciapiedi. Esatto, e per di più quando magari escono in gruppo spesso abbandonano gli amici, cioè sono tutti ubriachi. A me è capitato di andare a riprenderli sull'autobus al capolinea perché avevano lasciato quello più ubriaco che non si teneva in piedi fino al capolinea dell'autobus. Oppure sentiamo anche dei tristi avvenimenti in discoteca, che si è stato trovato ultimamente un ragazzo attaccato ad un albero proprio in uno stato di ebbrezza, che era passato oltre, dagli amici l'hanno lasciato lì e lui non è riuscito a rientrare alla macchina ed è morto. Sentiamo un attimo Giulio, così non lo tengo più tanto tempo. Giulio, dunque, un'altra mamma mi ha detto i tre bianchi. Una cosa che va molto a Roma sono i tre bianchi. Mi sembra che sia gin, vodka e tequila o qualcosa del genere. No, quelli sono i quattro bianchi. Ah, i quattro, quattro. Qual è il quarto? Sono gin, vodka, non tequila, ma ci sta il rum bianco e il triple sec. Oppure anche i tre bianchi, sì, dove si cambia un po'. Però alla fine sono praticamente, si chiamano bianchi perché non è senza colore, sì, tipo sì, acqua. E quindi il cicchetto fatto così. Sì, però diciamo la verità. Sono bombe alcoliche. A chi gli piace bere è una stronzata, perché è come fare il mix degli avanzi di casa. Cioè, assolutamente. Non c'è una roba scelta. Che non ha gusto. Niente, di niente. Non ha gusto, il fine è altro. Quindi questi sono fenomeni, secondo me, proibire è controproducente. Al contrario, bisognerebbe riuscire a gestire, sia da un punto di vista normativo, sia con facendo, noi per esempio ci siamo consorziati, abbiamo la sicurezza privata in quelle quattro zone che forniscono un servizio di pattuglia, ci sono le ambulanze a monte e a valle di questa Giulio, zona. Giulio, onestamente è difficile chiedere sempre il documento ogni volta che vi è. Come riescono? Non voglio dire che il mio locale eccetera eccetera, noi li chiediamo i documenti, però spesso mi rendo conto che quello lì, cioè che il ragazzino con fare ti caccia la carta d'identità 1995, ha fatto 16 anni da poco, te la sbatte sul bancone e mo mi dai quello che voglio, ti dice, capito? Tu lo prenderesti a sberle perché dici, ma tu sei un ragazzino, ma che, cioè, che è anche vero che è vietato comunque somministrare alcolici a chi è già in evidente stato di ebbrezza. Lei potrebbe dire, tu sei già fatto e non ti do niente. Esatto, però se non lo è, no, ma io la capisco perfettamente. È paradossale, però è così. Non può essere affidata soltanto a colui che sta al banco tutta la responsabilità di una catena che mi sembra abbastanza complessa. La ringrazio molto della sua consulenza, che è stata molto, molto preziosa. Dottor Mario Ceccanti, buongiorno. Buongiorno. Lei è responsabile del centro di riferimento regionale per i problemi e le patologie alcol dell'Umberto I di Roma. Sono un'infinità di anni che si occupa di questo problema. Mi dice quali sono i segni, i sintomi dell'evoluzione rispetto alle generazioni precedenti? Ma diciamo soprattutto riguardo ai giovani, sono i luoghi dove bevono, no? Cioè noi possiamo assistere praticamente a un'evoluzione, perché fino agli anni 90 il posto più dove si beveva di più era la festa degli amici, quindi a casa di amici quando si facevano le feste. Nel 92-93 sono comparsi i pub e quindi i pub sono andati al primo posto. Le discoteche, che molti accusano continuamente di essere un posto dove si strabeve, in realtà sono sempre stato al terzo, quarto, quinto posto. Sì, perché costa, perché il problema è che nel pub con un euro e mezzo uno si prende il cicchetto, in discoteca la seconda consumazione costava già tantissimo rispetto al budget che può avere un ragazzino. Ma difatti la maggior parte di volte arrivano già fatti, detto tra virgolette, no? Cioè hanno già bevuto, oppure si portano da bere da fuori, non comprano nelle discoteche i giovani. Diciamo, ah, tengono la bottiglia in macchina, certo, è chiaro. Sì, insomma, se si fanno i controlli prima di entrare in discoteca, come molti colleghi hanno fatto, si vede che il 30-40% dei giovani che arrivano sono già a livelli di alcolemia elevati. Quindi loro, mi viene da pensare, anche se il paragone può sembrare impietoso, sì, i bambini di strada, delle favelas, che sniffano la colla, perché è l'unica maniera che hanno per sballarsi, vanno, sì, a cercare nelle discariche la colla e la sniffano, e impazzissi vanno. È un po' l'equivalente, la nostra opulenta società, dello sniffare la colla. Bevono robaccia pur di sballarsi. Ma il problema, io lo differenzierei un attimo, perché noi stiamo facendo un po' di tutta un'erba un fascio, no? Nel senso che noi parliamo di giovani che sballano, che bevono, eccetera. In realtà tra questi giovani noi abbiamo due categorie. Una categoria di persone, di ragazzi che hanno un disagio interiore provocato in vario modo, adesso non mi voglio dilungare, che ricorrono appunto alla sostanza per star meglio. E questo possiamo omologarlo appunto alle favelas, alla colla, allo sniffare la colla, eccetera. Perché è un bisogno interiore di agire in modo di star meglio. Melog, la realtà condivisa. Mi ero interrotto, parlavamo di ragazzini che bevono. Ragazzini che bevono superalcolici, ragazzini che bevono superalcolici semplicemente per sballarsi, ragazzini che vengono classificati in due grosse categorie: quelli che bevono per un loro profondo disagio, che cercano di compensare con il consumo alcolico, e quindi un bere compensativo al profondo disagio che sta dietro, ne è la ragione, probabilmente risiede anche nella famiglia, dovrebbe controllarlo, arginare questo fenomeno, e un'altra categoria che ci stava spiegando il dottor Mauro Ceccanti, che è responsabile del centro di riferimento regionale per i problemi e le patologie alcoliche dell'Umberto I di Roma. Allora, professor Ceccanti, andiamo avanti. L'altra categoria sono praticamente coloro che vengono indotti a bere, cioè noi abbiamo una società che in qualche modo induce al consumo, no? Quindi ci possono essere dei fenomeni di imitazione, di appartenenza al gruppo, fenomeni che contribuiscono però appunto a compiere azioni tipo il bere alcolici, che sono del tutto negativi per la salute. questi ragazzi chiaramente nel loro futuro non è detto che divengano degli alcol dipendenti, però è possibile che possano sviluppare una dipendenza nel periodo più lungo. Ma secondo me non voglio azzardare diagnosi, non è sì. Il rischio è che stiano male in questo momento, una volta cresciute se lo dimenticheranno. Quello che stavo aggiungendo è proprio questo, cioè rischiano anche di morire. Non dimentichiamo che la prima causa di morte in Italia tra i 20 e i 30 anni è l'alcol. Questo non è una cosa da lasciare così in secondo piano. Lei ci dice che la prima causa di morte della categoria anagrafica che stiamo analizzando è proprio l'abuso di alcol, e non mi sembra da poco. Chiaramente non è detto che sia tra coloro che hanno il disagio soltanto, è anche tra coloro che magari una sera soltanto bevono per festeggiare qualche cosa, prendono una macchina, vanno a sbattere e muoiono, oppure investono qualcuno e così via. Insomma, ecco, queste sono un pochino le conseguenze anche per coloro che non hanno una dipendenza. Noi dovremmo cercare comunque sempre di distinguere le persone che hanno una dipendenza da alcol o un abuso di tipo psichiatrico, diciamo noi, un abuso che porterà alla dipendenza, rispetto a coloro che invece abusano della sostanza perché non sono abbastanza preparati a conoscere gli effetti negativi. Un'ultima cosa poi velocissima, una cognizione tipo tecnico che ci manca. Il ragazzo preadolescente in realtà deve ancora sviluppare alcuni enzimi che gli permettono di elaborare l'alcol, corrisponde in realtà a questo, quindi è più indifeso nei confronti dell'alcol. Ma guardi, questo è il capitolo della fetopatia alcolica, cioè il feto di una madre che durante la gravidanza beve nemmeno quantità eccessive di alcol, può anche bere piccole quantità, in realtà viene esposto a una sostanza tossica che crea dei problemi in questo bambino che si svilupperanno poi durante tutto l'arco della vita e lo renderanno molte volte un disabile, cioè un bambino con dei problemi di tipo attenzionale, un bambino con iperattività, un bambino che insomma sarà a carico della società e produrrà dei costi. Poi non mi sembra sia il caso più diffuso nel fenomeno che stiamo osservando questo. No, è abbastanza diffuso, solo che non è conosciuto, in Italia si tace su questo argomento. Quindi potremmo dire, è azzardato dire che c'è una generazione di ragazzini che bevono perché i loro genitori non si sono negati nulla in un momento in cui potranno stare un po' più attenti. Sì, questo è vero, guardi, noi abbiamo fatto un'indagine epidemiologica con l'NIH, ho sentito prima che lei ha citato l'Istituto Nazionale Americano sull'alcol e l'alcolismo, proprio con quell'istituto abbiamo fatto un'indagine qui nel Lazio. E praticamente abbiamo avuto una risposta di 47 bambini su 1000 nati che hanno questo tipo di problematica in vario grado. 47 su 1000 nati significa che sui 660.000-600.000 che nascono ogni anno in Italia di bambini, se facciamo un'inferenza non del tutto corretta, d'accordo, però arriviamo sui 20-30.000 bambini che ogni anno nascono in Italia con queste problematiche. Quindi potrebbe essere queste ragazzine che vediamo ubriache vomitare nelle metropolitane, potrebbe essere che il fenomeno non si fermi lì, questo ci sembra che ci faccia capire il professor Ceccanti. Piera, buongiorno. Buongiorno. Velocissima, che abbiamo poco tempo, lei ha un'esperienza familiare. Sì, è un'esperienza familiare, una ragazzina di 14 anni che è passata dalle medie al liceo, cambiato completamente scuola e niente, va a una festa, si ritrova con i vecchi compagni e racconta tutta una storia che lei beve 2-3 spritz alla sera quando esce da scuola, che su e giù, insomma, cosa non vera, perché alle 6 esce da scuola proprio perché era seguita da mia figlia in tutti i modi, perché aveva questo inizio. Questa è un'amica di sua figlia? Sta parlando di un'amica di sua figlia? No, io sto parlando di mia nipote. Ah, sua nipote. Di mia nipote diretta, e niente, per cui era molto seguita da mia figlia, dai professori, da tutti, proprio per via del cibo, che insomma sembrava un inizio di anoressia, sì, per cui non era trascurata. Però va a questa festa e racconta che lei beve 2-3 spritz, che questo e che quello, siccome studia a Venezia, e un suo compagno delle medie gli dice: ma dove vai a Venezia? Fa, perché, cioè, lui è veneziano, sto ragazzo, e lei gli dice: ma vado lì, ma fa, lui non ti ho mai visto, insomma, ha fatto stare subito questa discussione, perché sto ragazzo metteva in dubbio, va a casa, racconta tutto alla mamma, la mamma con mia figlia sono amiche, gli dice: ma come, tua figlia fa questo e questo e questo? Mia figlia dice: impossibile, perché è seguitissima, viene a casa, la quindi controllo. Sintetizziamo, che succede? Sintetizzando, succede che il ragazzo, dopo, lei il giorno dopo gli manda un messaggio e gli dice: questo ragazzo sei uno sfigato. Ah, ecco, e il ragazzo alla festa successiva, va a una festa successiva, lei non c'è, comunque questo è quello, sto ragazzo si mette alla prova probabilmente, e la chiamano la mamma che il ragazzo si è sentito male perché ha bevuto. Quindi lei ci ha dato un'esemplificazione reale di come passi il messaggio nella seconda categoria che diceva il professor Ceccanti, di dire si beve perché chi non beve è naturalmente sfigato, e quindi lo sfigato è sempre più vittima degli altri, di dimostrare di risalire la china, e beve, e quello probabilmente sta male per prima. Ringrazio Erika Valsecchi, ringrazio Fabrizio Intonti e il professor Chiappini, ci sentiamo domani.